che lavorano in settori molto diversi, cioè penso alle compagne di Non Una di Meno, penso ai lavoratori della GKN, penso alle tantissime lotte della logistica che vanno ad intrecciare diritto al lavoro, ma anche diritto, come dire, all'esistenza quasi di settori di immigrazione, no? Che combattivi, che hanno anche quel genere di rivendicazione. Penso ad alcuni settori, ad alcune frange del movimento ambientalista. E quello di oggi è un governo dal forte valore fascista in ambito culturale, che però ha delle ricadute molto violente sul piano poi concreto, reale. Ci saranno degli attacchi, cioè è un governo che non metterà in discussione l'assetto ultraliberista dal punto di vista economico, è un governo che, anzi, figuriamoci, Fratelli d'Italia, di certo non metterà in discussione l'assetto e il posizionamento dell'Italia sul piano internazionale, all'interno dell'Unione Europea, ancora di più, figuriamoci, all'interno della NATO. È però un governo che probabilmente farà degli attacchi estremamente violenti rispetto ai diritti civili, la questione dell'aborto sta già esplodendo, che farà probabilmente degli attacchi rispetto al diritto di sciopero, già messo a dura prova dalle varie fasce di garanzia e quant'altro. È un governo che cercherà probabilmente di modificare la Costituzione, come già stato ricordato, Costituzione modificata sempre fino ad oggi con l'appoggio diretto del Partito Democratico, se non sotto proposta diretta del Partito Democratico. Però diciamo che potremmo vivere in uno Stato non solo presidenzialista, ma che con un impianto repressivo istituzionale estremamente, estremamente forte. Sarà sicuramente un governo che farà suo un ulteriore scatto in avanti del revisionismo storico. Eric parlava appunto delle politiche della memoria, della normalizzazione del fascismo e della glorificazione del patriottismo nazionale in questo senso. E questo potrebbe entrare nelle scuole a pari, se non addirittura sostituendo il lavoro che in questo momento fa l'AMPI, e quindi un ingresso nelle scuole di segno completamente opposto. È un governo che potrebbe sdoganare la violenza in un qualche modo ancora di più, sia dal punto di vista istituzionale, come repressione dell'opposizione, dei cortei, dei picchetti, delle discese in piazza, sia dal punto di vista non istituzionale, no? I Bangla Tour, diciamo, che potrebbero essere ulteriormente tollerati. Quello che però è emerso oggi, secondo me, è che, come dire, non possono esistere delle lotte operaie senza delle lotte contro il patriarcato, e non possono esistere delle lotte contro il patriarcato senza delle lotte profondamente antirazziste. E a sua volta, per capire che cos'è il razzismo e quindi per combatterlo, non può esistere una lotta antirazzista senza una lotta contro il revisionismo storico. E tutto questo ci serve per costruire un'opposizione antifascista, che però è un'opposizione che funziona e che, come dire, ha valore sul lungo periodo quando mette in discussione l'intero sistema, cioè il sistema capitalista che genera tutte quelle oppressioni di prima, tutte quelle violenze di prima. Oggi a me ha colpito molto quando è emerso il fatto che, ed è vero, ed è proprio vero, che l'antifascismo oggi è percepito come conservazione, cioè è percepito come conservazione del sistema sociale ed economico. I giovani oggi, giovanissimi, lo percepiscono così, perché chi si è fatto alfiere dell'antifascismo è poi colui che effettivamente ha fatto tutte le peggiori riforme del lavoro, è colui che ha modificato la Costituzione. E allora si rischia di fare in modo che di vedere, di avere sotto gli occhi che questo antifascismo, che è una sorta di maquillage democratico, diventi in realtà, agli occhi soprattutto delle nuove generazioni, uno strumento di conservazione. Non lo è, a mio modo di vedere, e secondo me anche da quello che è emerso, quando critica profondamente lo stato di cose esistente. Cioè, l'antifascismo non può esistere, in buona sostanza, senza anticapitalismo. Istruirci, agitarci e organizzarci, no? Per mutuare un pochino il consiglio di Gramsci. Gramsci è stato citato più volte oggi. A noi serve evidentemente una analisi collettiva, e iniziative come quelle di oggi servono anche per stimolare una analisi collettiva. Serve che questa analisi collettiva poi si concretizzi in azioni collettive. Per passare al contrattacco, diceva Eric, noi dobbiamo passare al contrattacco, noi dobbiamo costruire azioni collettive. In vista magari un domani di costruire anche una organizzazione collettiva, che però non si crea mai a freddo. Le organizzazioni, i partiti e anche i sindacati, è difficile che si creino a freddo, è più facile che si creino, voglio dire, dal fuoco caldo delle lotte, no? Dalle rivendicazioni, dalle mobilitazioni collettive. Credo che per passare al contrattacco serva uscire dai recinti nei quali siamo abituati, e che la storia stessa ci sta portando a uscire da questi recinti. Noi viviamo in un momento di profondissima crisi delle organizzazioni storiche, e tra le organizzazioni storiche io inserisco anche il movimento dei centri sociali, perché ormai il movimento dei centri sociali esiste da 40 anni, cioè non è una cosa nuova, non è una novità sul mercato della politica. Noi dobbiamo essere capaci di ripensare il nostro modo di agire all'interno della società, perché le lotte ci sono, le oppressioni ci sono, le violenze di classe ci sono e come, di genere ci sono e come. E dobbiamo essere, credo, capaci di capire che non possiamo più, non siamo più autosufficienti nel nostro isolamento. Non lo è nessuno. Non lo sono i partiti, non lo sono i sindacati, che devono ricominciare, penso al sindacalismo di base, alla preziosa esperienza del sindacalismo di base, però alla gravità della propria frattura tra organizzazioni di base. Nessuno è più autosufficiente. I centri sociali stessi, io parlo da compagno che milita in un centro sociale, per decine di anni si sono permessi di stare fuori da certi giochi politici perché avevano una forza tale da poter essere autosufficienti. Oggi non lo sono più, non lo siamo più, e non lo è più nessuno. Quindi ricominciare ad andare là dove le lotte sono reali e ricominciare a costruire reti nel nostro piccolissimo. La serata di questa sera è servita anche per questo. Noi stiamo cercando di, come dire, cementare un rapporto tra organizzazioni politiche differenti, il Centro Sociale Baraonda, l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Marspedia, sono realtà politiche che fanno politica in forma differente, che però possono contaminarsi insieme e costruire delle reti. Io credo che tutti noi qua presenti, che si faccia parte o meno di organizzazioni politiche, si debba provare a costruire queste reti insieme. Aggiungo che noi come compagni e compagne Baraonda siamo a disposizione e vogliamo lavorare su questo. Quindi ci siamo qua. Ricominciamo a istruirci insieme, a mobilitarci insieme. Questo è una, non solo una speranza, una necessità pratica che abbiamo evidentemente sotto gli occhi. Quindi io vi saluto con questa speranza e questa necessità. Nel salutarvi vi invito a dare un occhio ai banchetti che sono presenti, alla nostra libreria, e adesso ci sarà un aperitivo di autofinanziamento dello spazio. Se riusciamo facciamo anche un po' di castagne, abbiamo preparato le castagne, vediamo se riusciamo a fare anche un po' una castagnata, e quindi rimanete ancora un po' qua, insomma, che si chiacchiera un po' informalmente e si sta un po' insieme, perché anche questo è costruire comunità. Grazie a tutte e a tutti, e insomma a presto davvero.